Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani e una buona giornata a tutti. Allora, immaginate di rovistare in cassetti che non avete mai aperto o che non aprivate da tempo. Immaginate di rinvenire un piccolo tesoro, ad esempio una polizza vita intestata magari purtroppo ad un familiare passato a miglior vita che non ha avuto il tempo di riscattarla. Immaginate di recarvi allo sportello postale o di rivolgervi al vostro assicuratore di fiducia, presso il quale appunto avete sottoscritto questo prodotto di investimento, presso il quale era stato sottoscritto da parte di questo familiare defunto, e sentirvi dire: ci dispiace, è passato troppo tempo, non si può incassare. Allora, la questione dei cosiddetti, come dire, rapporti dormienti è molto articolata, noi ne abbiamo parlato anche in altre puntate di Salva Danaio. C'è una norma che dice che certi rapporti finanziari con la banca che non si movimentano per oltre 10 anni vedono gli importi trasferiti al Ministero dell'Economia, ma c'è una novità che invece è arrivata un po' più di recente, contenuta nel cosiddetto decreto Alitalia del 2008, che ha stabilito che questa regola non vale per le polizze vita che, una volta scadute, vanno movimentate o riscattate entro 2 anni, pena il trasferimento definitivo al tesoro. E questo è quanto è accaduto infatti ad alcuni titolari di polizze, per esempio sottoscritte con Poste Vita o con il gruppo assicurativo INA. 3 associazioni dei consumatori non ci stanno e hanno avviato una causa collettiva proprio contro Poste Vita contro il gruppo assicurativo INA, perché nei loro contratti stabiliscono una prescrizione di 10 anni e invece a quanto pare si sono adeguate alle nuove norme sulla prescrizione a 2 anni e quindi hanno trasferito di fatto questi fondi al Ministero dell'Economia. È una situazione complicata. Per fare un po' di chiarezza, noi questa mattina abbiamo chiamato ad aiutarci intanto la nostra Federica Pezzatti, giornalista di Plus 24 del Sole 24 Ore, che ha scritto tanto rispondendo anche a molti lettori che sono rimasti direttamente coinvolti in vicende spiacevoli come quella che adesso tenteremo magari con un esempio concreto di descrivere. Federica, ciao, bentornata. Buongiorno a tutti. E poi abbiamo con noi l'avvocato Maurizio Nunziante, membro della presidenza nazionale della Lega Consumatori e responsabile del comparto assicurativo di questa stessa associazione. È una delle 3 associazioni che ha intentato proprio questa causa collettiva. Avvocato Nunziante, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno, grazie a lei. Allora, ovviamente c'è sempre l'opportunità per gli ascoltatori di chiamarci all'800 24 00 24, di scriverci al 349 238 6666 per correttezza, qualora poi qualcuno lo dovesse sollevare questo problema. Noi ieri abbiamo interpellato sia Poste Vita che il gruppo assicurativo INA, ritengono di non dover intervenire in trasmissione. Poi vi dico la posizione di INA, che è abbastanza chiara per quello che riguarda Poste Vita: hanno già fatto una trasmissione con noi su questo argomento, ritengono che di novità non ce ne siano da raccontare, pertanto questa mattina l'unica novità è la causa collettiva appunto avviata da queste 3 associazioni dei consumatori. Da questa partiremo per rifare un po' il punto per tutti della situazione. Allora, prima di partire su questo argomento, un'occhiata alla borsa, giornata piuttosto movimentata soprattutto a Piazza Affari, dove si è riaccesa la speculazione su alcuni titoli, su Telecom e su Mediobanca. In particolar modo di Telecom abbiamo parlato nel corso del giornale radio, sarebbe pronta l'integrazione con Telefonica, addirittura sarebbe già pronto il piano di scambio delle azioni, un piano che sarebbe addirittura promosso, avallato dal governo, ma naturalmente stamattina anche su sollecitazione della Consob il governo ha smentito categoricamente questa ipotesi, che è stata ricostruita dalla stampa. E infatti il titolo, dopo un avvio con un rialzo di quasi 9 punti, adesso ridimensiona il suo entusiasmo e guadagna comunque il 2,78%. Mediobanca più 3,62, miglior titolo di questo momento di Piazza Affari. Anche qua riflettori di noi puntati sul titolo di Piazzetta Cuccia. Cesare Geronzi in marcia verso la guida di Generali avrebbe riacceso invece le ipotesi di una possibile aggregazione fra Mediobanca e Leone di Trieste, per cui qua insomma di notizie che stanno rigalvanizzando il mercato finanziario italiano ce ne sono tante negli ultimi giorni, forse giornate così intense non si vedevano da tempo, e comunque titoli in rialzo, così come fa il Banco Popolare, che guadagna 3,5 punti. Il Legruppo invece ha ridestato l'attenzione degli investitori perché sarebbe pronta a ritornare alla distribuzione di un dividendo, e questa sembra una buona notizia che naturalmente incoraggia gli acquisti. Più 2% per Impregilo e Saipem, in negativo invece CIR che perde 1,5%, Fiat non beneficia più di tanto dei dati sulle immatricolazioni in gennaio, un vero boom di vendite nel nostro paese, ma a quanto pare gli ordini di nuove auto sarebbero invece ridotti al lumicino, per cui per il Lingotto oggi nuova penalizzazione da parte del mercato. Euro su dollaro a 1,39 e 35. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi e parliamo di queste polizze dormienti. Sentiamo che cosa sono. La delicatezza della questione polizze dormienti era nota da tempo, tanto da suscitare nei mesi scorsi interventi da parte di governo, ABI e ANIA. In sostanza, chi non le reclama per tempo, cioè entro 2 anni dalla scadenza o dalla morte dell'intestatario, perde i soldi. Lo dice la legge 166 del 2008, il cosiddetto decreto Alitalia, che ha esteso alle polizze vita la disciplina dei conti dormienti. Di fatto, se la polizza vita cade in prescrizione, gli importi dovuti al beneficiario finiscono altrove. Dove? Nel fondo per le vittime delle frodi finanziarie. La norma, che ha decorrenza retroattiva dal 1 gennaio 2006, sembra però aver risvegliato le associazioni dei consumatori, in particolare ADOC, Adiconsum e Lega Consumatori, che nei giorni scorsi hanno avviato una causa collettiva contro le compagnie Poste Vita e INA. Nel mirino alcune comunicazioni fornite, a detta delle associazioni, dalle compagnie. Nel contratto di Poste Vita, ad esempio, la società rinuncia alla prescrizione di 2 anni e permette di poter recuperare le somme entro il limite dei 10 anni, ovvero sia con lo stesso limite di prescrizione dei conti correnti dormienti. Un presupposto, quest'ultimo, che secondo le 3 associazioni consentirebbe alle famiglie coinvolte, oltre 10.000, di riacquisire le somme che nel frattempo sono passate al Ministero dell'Economia. 800 24 00 24 è il numero verde per le domande degli ascoltatori, per le vostre domande, che ci potete rivolgere anche scrivendoci al 349 238 6666. Volevo fare subito, Federica, se mi aiuti, una precisazione a tutti gli ascoltatori che magari sentendo la trasmissione cominciano a preoccuparsi, avendo magari sottoscritto da poco un prodotto vita con Poste Vita o magari con il gruppo assicurativo di cui stiamo parlando. La questione di cui vogliamo chiarire i termini stamane è una questione abbastanza circoscritta anche come arco temporale. Stiamo parlando di un gruppo di polizze distribuite, collocate sul mercato in un determinato periodo di tempo, e quelle che ricadono sostanzialmente sotto l'arco temporale poi fissato da questo decreto all'Italia. Certo, no, innanzitutto riguardano polizze già scadute, e quindi di solito chi arriva alla scadenza le incassa proprio in concomitanza con la scadenza, oppure polizze per cui magari si è verificata una spiacevole ipotesi, che può essere quella della morte dell'intestatario, e appunto quindi ci troviamo di fronte a polizze in cui c'è stato un decesso dell'intestatario e magari gli eredi non hanno prontamente incassato il quanto spettava, ecco. Questo può essere accaduto perché, come è il caso di molti risparmiatori coinvolti, perché proprio agli sportelli c'era una politica, che non so se era una politica soggettiva dello sportellista o se era invece una consuetudine, che era quella di rimandare il momento dell'incasso della polizza alla scadenza, come se non fosse accaduto nulla e quindi non ci fosse stata la premorienza dell'intestatario. Di conseguenza gli eredi o comunque i beneficiari della polizza, quelli proprio scritti sul contratto, si sono visti magari posticipare questa scadenza, che altrimenti avrebbero magari rispettato. È il caso appunto dei tanti che ho selezionato nel corso di una mia inchiesta. Appunto, questi non si erano dimenticati dell'esistenza della polizza, ma erano andati in posta l'indomani del decesso, purtroppo, della mamma e della moglie dei 2 beneficiari, e si erano visti proprio chiedere, suggerire. Diciamo di posticipare il ritiro a tempi futuri, quando magari sarebbe scaduto il contratto. Questo non capiamo francamente perché sia stato fatto, forse in nome di quella, appunto, di quella prescrizione più lunga che Poste Vita in effetti nel contratto contempla. Adesso si è creato questo guaio, che però penso appunto non dipenda dalla malafede di Poste Vita, probabilmente erano suggerimenti che venivano dati a ragion veduta. Mm-mm. E poi sono stati e invece ingarbugliati, sono rivelati dei una delle classiche questioni all'italiana che francamente sarebbe bene risolvere pensando che sono soldi di persone, di risparmiatori, e quindi non si capisce come. Secondo te in quanti sottoscrittori di questi prodotti si trovano in questa situazione? Credo che Poste Vita abbia calcolato qualcosa come 6.000 sottoscrittori, sì. Non so quanti si riferiscono invece ad INA, della quale appunto devo precisare appunto poi la posizione, adesso lo dirò, però comunque c'è un ammontare preciso in termini proprio di soldoni. Ma io vedevo che anche le associazioni stimano 200 famiglie coinvolte con ammontari che vanno da 5 a 15.000 euro, quindi poi ci sono vari numeri che circolano. Certo è che si tratta di un fenomeno abbastanza rilevante, anche perché Poste Vita sta diventando leader nel mercato delle index e anche delle polizze vita, perché avendo numerosi sportelli radicati tutto il territorio, è chiaro che la popolazione coinvolta è numerosa e non tutti tra l'altro seguono queste vicende, per cui viene anche da chiedersi i vari risparmiatori magari del paesino dove c'è solo la posta, magari non hanno mezzi di comunicazione, non leggono i giornali, come possono poi essere informati di questo? Non ci dimentichiamo che anche Poste Vita è caduta nella trappola di Lehman Brothers, perché aveva dei prodotti appunto indicizzati ai titoli e alle obbligazioni della banca fallita, e molto spesso questi prodotti di investimento, anche quindi proprio tipicamente le polizze vita, vengono venduti in sostituzione anche di buoni fruttiferi, che sono i prodotti di risparmio più diffusi tranquilli attraverso le poste, con l'assicurazione appunto che sono prodotti altrettanto tranquilli e sicuri. Invece molto spesso sono purtroppo indicizzati al mercato, purtroppo per fortuna, perché qualche volta chiaramente con condizioni di mercato favorevoli rendono molto, in circostanze invece negative come quelle degli ultimi anni non rendono assolutamente bene. Comunque, avvocato Nunziante, eccoci a noi. Io tra poco tra l'altro devo già andare con la prima pausa, però la prima domanda che le voglio fare è un pochino tecnica, perché dobbiamo essere bravi a spiegare ai nostri ascoltatori perché voi avete intentato la causa collettiva, e dobbiamo precisare che non è una class action secondo le nuove modalità che sono entrate in vigore dal 1 gennaio, quindi prima cosa da chiarire. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Noi abbiamo intentato questa azione collettiva perché la situazione per quanto riguarda queste compagnie, in particolare per quanto riguarda Poste Vita, è appunto una situazione un po' diversa, nel senso che non è solamente quella di una prassi che si faceva autonomamente e informalmente allo sportello. Tra l'altro una prassi completamente legittima, perché la prescrizione è un diritto disponibile, è un diritto a favore del creditore, quindi è perfettamente legittimo che le compagnie di assicurazione potessero rinunciarvi, non eccepirlo. Ma per quanto riguarda invece Poste Vita, risulta che nei contratti era espressamente previsto per iscritto l'obbligo di corrispondere, di rinunciare al diritto della prescrizione biennale e di corrispondere il capitale in caso di morte, purché la richiesta fosse stata inoltrata entro 10 anni. Benissimo. Quindi c'è una situazione un po' diversa, perché qui c'è in questo caso un obbligo per iscritto. È vero, come potrà essere eccepito, che non può esservi la rinuncia preventiva alla prescrizione, perché c'è un articolo del Codice Civile del 1937 che lo vieta, ma è anche vero che comunque Poste Vita si è impegnata a restituire questo capitale entro 10 anni anche in caso di morte, e data la tipologia delle polizze queste clausole hanno sicuramente un valore importante ai fini anche della stipula del contratto, perché danno sicurezza. Molte di queste polizze sono fatte anche pensando ai propri familiari, infatti, e come dicevamo, è un elemento essenziale della formazione della volontà contrattuale, per cui quantomeno in via risarcimento transitoria e quantomeno perché comunque, indipendentemente dalla prescrizione o meno, esiste un impegno a entro 10 anni, da esercitarsi entro 10 anni a restituire la sotta capitale, noi riteniamo che ci siano le condizioni giuridiche per fare queste cause. E tengo quindi in sostanza voi dite non si capisce perché Poste Italiane si sia incaponita ad ottemperare al decreto all'Italia trasferendo i soldi delle polizze. Io voglio spezzare tuttavia una lancia, voglio dire, in favore di Poste Vita, perché il vero problema è che questo intervento legislativo che è stato è stato un intervento non corretto ed è stato un intervento anche fatto tecnicamente male, perché è venuto a inserirsi su un complesso normativo molto particolare, molto articolato, in modo anche un po' pesante. Per cui ovviamente loro si vedono sollecitati dal ministro a mettere l'elenco di queste polizze cosiddette. Avvocato, tra l'altro sul tema un po' tra virgolette, passatemi il termine, il conflitto di interessi, ci siamo sollevati anche, abbiamo sollevato la nostra perplessità anche altre volte. Allora, eccoci ritrovati in diretta. Questa mattina stiamo parlando di una questione che abbiamo già affrontato precedentemente a Salvadanaio, stiamo parlando di queste polizze vita che magari alcune famiglie si ritrovano in casa perché sottoscritte da parte di congiunti deceduti qualche tempo fa, e recatisi queste famiglie allo sportello delle Poste con l'intenzione appunto di riscattare questo denaro, si sono trovate nell'impossibilità di farlo perché nel frattempo, in questi ultimi 2 anni, è intervenuta la legge, il decreto Alitalia del 2008, la legge 166, che ha imposto, se queste polizze non vengono riscattate nel giro di 2 anni dalla morte di questo congiunto, vengono trasferite al Ministero dell'Economia. E in sostanza una questione un po' complessa per qualche famiglia, molte tra virgolette vittime di questa norma che, come ci spiegava l'avvocato Maurizio Nunziante, tutto sommato è anche un po' impostata non proprio bene. Di fatto adesso si tratta di capire se queste persone possono avere il titolo appunto di essere risarcite in qualche maniera e possono ritornare in possesso del loro legittimo capitale oppure no. Questione complicata, come vi dicevo. Sentirei un paio di esperienze di un paio di ascoltatori per poi ritornare, oltre che con l'avvocato Maurizio Nunziante, anche con la nostra Federica Pezzatti di Plus 24 del Sole 24 Ore. Comincerei con Pierluigi dalla provincia di Pordenone. Pierluigi, buongiorno. Buongiorno. Cosa le è successo? Allora, mio padre nel 2008 è morto e aveva stipulato nel 2002 un'assicurazione vita 3 a valore reale. Sì. A un certo momento succede il patatrac in America e i derivati subiscono quel che subiscono. Va bene, sì. Maniago è un piccolo ufficio postale dove ci si conosce un po' tutti. Le avevamo stipulato con un amico che lavorava lì questa cosa qua. Quando sono andato per chiedere notizie, dopo la morte di mio padre, mi hanno detto: guarda, verrai contattato perché sta succedendo un po' un disastro, comunque non ti preoccupare, verrai contattato. Ormai questa cosa qua non è più gestita da noi, ma verrai contattato dalla sede di Pordenone. Vabbè, aspetta un po', non arriva niente, arriva una lettera nella quale ci fanno, intestata mio padre che è già morto, nella quale ci fanno la proposta di portarla, allungarla nel tempo, eccetera, eccetera. Morale della favola, non abbiamo ricevuto nessuna informazione. Io sono andato diverse volte all'ufficio postale di Pordenone, sono stato allontanato perché non mi hanno fatto parlare con nessuno, mi ha detto: guardi, arriverà, gli telefoneremo, eccetera, eccetera. Il tempo passava. Dopo un anno e mezzo, insomma, ho trovato questo mio amico e gli ho detto: senti, facciamola finita, e richiedo che mi venga liquidato perché qua non se ne può più. E naturalmente lui mi ha aiutato perché via internet, nel frattempo il sito delle Poste non era difficilmente accessibile da noi, mentre loro hanno gli accessi più rapidi. Così abbiamo fatto. Risultato: il mio amico è stato trasferito alla Posta di Aviano. Perché non speriamo, non per colpa sua, Pierluigi, naturalmente, perché aveva fatto sollevare. No, deve aver fatto questa cosa qua, deve aver aiutato più di ha forzato uno, un po' il sistema informatico. Adesso questo non lo possiamo dire e appurare. Comunque, Pierluigi, di fatto a lei adesso è impossibilitato a riscattare questo denaro che era della polizza di suo papà che è deceduto nel 2008, giusto? No, in fine della fiera poi dopo è stato riscattato. Ah, ecco. dopo, grazie a questo amico qua, ma è stato riscattato. E però insomma lui ha dovuto subire un trasferimento ad Aviano. Di fatto sì, per qualche... Allora Pierluigi, grazie per essere stato con noi. Federica, comunque ecco, il tema io è che... Io penso che comunque lui si riferisse a un'altra spiacevole vicenda di Poste Vita, che è quella delle polizze... Titoli Lehman. Titoli che avevano le famose insomma, salsicce, infatti il termine. Però erano, come dire, lì è stato oggetto anche quello di una specie di transazione per cui ai risparmiatori è stato proposto di allungare la scadenza, quindi lui ha avuto un doppio coinvolgimento in due vicende che si incrociano in questo caso, altrimenti penso che essendo la polizza scaduta, il papà deceduto nel 2008 sarebbe ancora incassabile perché non sono passati 2 anni. E infatti. Allora, avvocato Nunziante, stavamo spiegando i termini della vostra azione collettiva intrapresa insieme ad Adiconsum, voi come Lega Consumatori, insieme ad Ado, che contro Poste Vita, come dicevamo, e contro il gruppo assicurativo INA. INA mi ha fatto sapere ieri, mi hanno diramato appunto il loro comunicato stampa che era stato formalmente diffuso a seguito proprio della vostra iniziativa congiunta, che all'interno delle condizioni contrattuali dei prodotti vita di INA Ass Italia non è mai stata presente una clausola di rinuncia al regime della prescrizione quale quella ricordata nel comunicato vostro delle 3 associazioni dei consumatori. Pertanto, dicono, non sussistono gli estremi per intentare alcuna causa collettiva nei confronti loro. E quindi andate avanti lo stesso perché... Qui il problema ovviamente, voglio dire, diventa poi un problema di cavillo giuridico, se cioè, voglio dire, un impegno a pagare, voglio dire, in un arco temporale di per sé stesso non comporta anche una rinuncia al diritto di prescrizione. No, ma quello che voglio sapere, voi avete dei contratti sotto mano di persone che hanno avuto rapporti con INA, dove praticamente formalmente la compagnia rinunciava alla prescrizione a 2 anni in favore di quella di 10 anni, e quindi questo è il presupposto per la vostra azione. Non è un problema di rinuncia alla prescrizione, è un problema, diciamo, di impegno a corrispondere entro un certo periodo successivo di 10 anni, di 5 anni successivo al biennio. Sono 2 cose, voglio dire, che da un punto di vista giuridico sono un po' differenti, sì. Perché come le ho detto prima, la rinuncia alla prescrizione preventiva non è possibile. Ma nel momento in cui è scritto, come è scritto nei contratti, che il pagamento avverrà comunque successivamente, allora diventa un'azione che, di tipo risarcitorio, perché ci sono delle clausole che hanno indotto il consumatore a stipulare quella polizza con quella possibilità di riscatto anche ultrabiennale, indipendentemente o meno dalla rinuncia alla prescrizione. Però io volevo dire una cosa, sì, che mi sembra anche importante. Noi ovviamente da un punto di vista giuridico, essendo le compagnie di assicurazioni contraenti, le azioni collettive diventano uno strumento, come dire, obbligato per la tutela dei diritti. Però quello che è importante dire è che in realtà i veri interlocutori non sono le compagnie di assicurazione, perché comunque le compagnie di assicurazione sono rimaste in un certo senso anche loro vittime di questo provvedimento. L'iniziativa che noi vogliamo fare rispetto a quale l'azione collettiva, oltre che per risarcire specificamente i diritti dei consumatori, ha comunque più in generale anche un valore di pressione, è quello di cercare anche in questi giorni di fare un emendamento alle disposizioni della legge 166/2008 che consenta, appunto, laddove ci sia stato pattiziamente, in modo diretto o indiretto, previsto la possibilità di pagare successivamente al biennio, queste norme antecedenti alla legge vengano fatte comunque salve, e nello stesso tempo, voglio dire, diciamo, sia anche consentita, sia anche posto un freno al problema della retroattività di questa norma, che è la cosa poi più grave, perché ovviamente in una prospettiva futura, allungando magari questo termine biennale, che è comunque troppo breve, tenga presente che esiste una norma del Codice Civile che dà all'erede la possibilità di accettare l'eredità entro 10 anni. Quindi in questo caso qui l'erede sarebbe costretto ad accettarla prima, e se si accetta per anche per un solo rapporto, si accetta per tutti. si accetta per tutto, quindi ovviamente sarebbe costretto immediatamente, diciamo, a magari a fare le scelte anche. Allora, ecco, in ogni caso questa pressione di cui lei ci parlava mi pare che da qualche parlamentare sia stata accolta, perché qualche emendamento è circolato adesso volto proprio a prendere in considerazione questa faccenda. Peraltro invece Federica Pezzatti, l'industria di categoria, l'ANIA, cosa dice di tutto questo, di questa situazione? L'ANIA sta facendo un po' di pressioni insieme a Poste Vita, mi sembra che sia, loro sono appunto molto contrari insieme a ABI a questo, a questa prescrizione così breve, che non si capisce francamente perché sia stata adottata per le polizze. Tra l'altro, in origine le polizze, il dubbio qualcuno ce l'abbia avuto, visto che dovevano essere risarciti gli ex obbligazionisti e gli ex azionisti di Alitalia, forse sì, qualcuno ha pensato. Però poi, tra l'altro, per altri prodotti vale per 10 anni, cioè fondi comuni, tutti gli altri valori immobiliari hanno una prescrizione di 10 anni, compresi i libretti postali. All'inizio, quando è stata fatta questo pasticcio con insomma tempi nel 2005, per le polizze c'erano molti dubbi, proprio perché c'era una prescrizione ancora più ridotta, un anno prima di questa, poi è stata portata 2 anni. Però appunto Ania diceva non possono rientrare nei 10 anni, perché le polizze hanno di per sé una prescrizione di un anno, quindi non possono essere inserite in questo mega problema dei conti dormienti, in quanto appunto nei contratti c'è scritto un anno, e quindi i soldi che non vengono reclamati entro un anno sono già delle compagnie formalmente. Poi quindi ci sono stati vari tentativi, varie negoziazioni, alla fine questo è il risultato, ecco, un po' un pasticcio. Esatto, è complicatissimo peraltro da far capire anche a chi ci ascolta. Vabbè, ci proviamo. Eccoci ritrovati. Allora, prima tra l'altro abbiamo dato qualche numero su quante famiglie potrebbero essere, sono potenzialmente coinvolte in questa difficoltà a ritirare, come dire, il denaro di polizze scadute oppure polizze intestate a familiari deceduti che non avevano finito il loro piano di versamento, ma che naturalmente gli eredi si sentivano appunto nel diritto di andare a riscattare. Non ci sono riusciti per tutta la questione complicata che abbiamo detto, che si è complicato ulteriormente con l'ingresso appunto di questo decreto 166, il provvedimento Alitalia del 2008. Allora, Federica, rifacendo un po' di numeri, dunque teoricamente quante famiglie, tra l'altro, e quante si sono rivolte alle associazioni dei consumatori che poi sono state spinte anche ad avviare questa azione collettiva? Ecco, le associazioni che stanno portando avanti la causa collettiva hanno stimato almeno 10.000 soggetti coinvolti, e circolano in generale cifre nell'ordine dei 30-40 milioni di euro, quindi sono cifre abbastanza importanti. Forse anche per questo, da un lato, ci sono un po' di lotte anche intestine politiche, perché non si capisce perché questo emendamento che salva, che non rende retrattiva la legge, non venga approvato. Non venga approvato. Un buon senso lo vorrebbe. Sentiamo Federico dalla provincia di Vicenza. Federico, buongiorno. Sì, signor Debor, buongiorno, grazie per avermi dato la possibilità. Grazie a lei di averci iscritto. Buongiorno, ci dica. Niente, il caso è analogo al ascoltatore precedente, riguarda sempre polizze vite di Poste Vita. Sì. E si riferisce a una polizza Indenlix classe 3A, e è una polizza che è stata sottoscritta da mia suocera nel gennaio del 2002, di durata decennale, e c'è da dire che purtroppo mia suocera è decessa nel settembre del 2007. Successivamente è arrivato sempre intestata a mia suocera da parte di Poste Vita due lettere che sono state ritirate dai figli, e che dicevano che gli erano invitati a presentarsi in un ufficio postale. È stato loro proposto, visto il periodo storico che stava attraversando il mercato, di convertire questa polizza in un altro investimento. Perché questa è quella agganciata Lehman, se non sbaglio, Federica, la classe sempre, 3A. Sono sempre quelle che sono incappate nel crack, ma sì, appunto erano fatte collegate proprio a... Quindi derivati. Federico, ecco, a voi è arrivata, come a tutti quelli che avevano una polizza di questo tipo, la possibilità, l'opportunità, la richiesta di aderire a questa opzione di, come dire, trasformazione della polizza. Voi cosa avete fatto? Esatto, recandosi in ufficio è stato proposto, visto che era venuto il decesso della signora, di fare la domanda di di premorienza dell'intestatario, e di far modo che i beneficiari ne godessero del ritorno del capitale che era garantito dal contratto. E quindi? E nel contratto è riportato che ci sono 2 anni di tempo. Questo è stato fatto a distanza di circa 15 mesi, quindi all'interno del margine previsto, E quindi siamo al punto che non si è più ottenuto risposta, c'è stato semplicemente risposto che la pratica è sospesa in previsione di quello che deve essere deciso, visto il fatto che la legge a cui vi siete riferiti prima ha creato questo problema. Ecco. Ma io penso che lei non rientri in questo problema, nel senso che se è stata fatta un'azione entro i termini, lei manda una bella lettera all'ufficio reclami ISVAP in primo luogo, e vedrà che l'ufficio reclami, se c'è comunque una prova scritta della proposta di trasformazione, del fatto che voi avete ritirato ufficialmente, avete fatto domanda ufficiale entro i termini di riavere quanto dovuto, è chiaro che voi siete fuori da questo, mi auguro che siate fuori da questo pasticcio. Però insomma lei magari avete, Federico, degli atti formali, tra l'altro fare... Federico, esatto, visto che lei ha già una bella mail scritta, quella che ha mandato a noi, basta che faccia un bel copia e incolla, lo manda all'ufficio reclami dell'ISVAP e vediamo che cosa le rispondono. Poi magari possiamo anche rivolgerci, se vuole, all'avvocato Nunziante, facciamo dare un'occhiata anche al suo caso. Avvocato Nunziante, lei cosa pensa dell'ascoltatore che ci ha appena scritto, a cui si sono praticamente verificati due eventi disastrosi contemporaneamente: la perdita di una congiunta che aveva sottoscritto questo prodotto, che non solo era agganciato a Lehman Brothers, adesso alle Poste, le dicono anche che questo può anche ricadere, addirittura non può fare questo riscatto. Io penso che l'ascoltatore ha invece il diritto di farlo, e ci sono le condizioni, sia perché siamo nell'ambito del periodo biennale, sia perché sembra che ci sia stato comunque un atto interruttivo della prescrizione, perché anche una richiesta, voglio dire, di trasformazione o meno lo è. E quindi d'accordo il discorso di rivolgersi all'ufficio reclami dell'ISVAP. Tengo anche a precisare che comunque Poste Vita, per quanto riguarda questi prodotti index, ha istituito una procedura di conciliazione abbastanza veloce, e magari, voglio dire, si può rappresentare il caso in quella sede, e sono sicuro che sarà risolto positivamente. Benissimo. Allora, Maria da Roma, buongiorno. Buongiorno. Anch'io nel 1997 ho stipulato due contratti, due assicurazioni vita, uno che mi scadeva dopo 5 anni e l'ho riscattata, e pur avendo pagato 3 milioni di lire di commissione, quando ho riscattato ho dovuto pagare 1000 euro. Ho chiesto il perché e dice: beh, non deve pagare la tassa. Ma come, non bastano i 3 milioni di lire che ho pagato all'inizio? E vabbè, la seconda mi è scaduta, sono andata, dopo 8 anni mi è scaduta, e dice che la potevo lasciare perché non era come la prima. Infatti hanno telefonato a Milano all'assicurazione e mi hanno detto che la potevo lasciare, e infatti ogni anno mi arriva l'estratto conto con l'adeguamento degli interessi. Però sentendo la trasmissione io adesso ho paura. No, signora, qua stiamo parlando proprio di una questione abbastanza particolare, che riguarda un gruppo di famiglie, un determinato gruppo di prodotti che sono stati sottoscritti e distribuiti in un determinato periodo di tempo. Cosa può essere successo al primo caso, alla prima partita? Forse è stata riscattata prima della scadenza. Infatti il tema dei caricamenti qua sarebbe... incidono, e poi magari ha avuto, magari la performance finanziaria paradossalmente può aver avuto un risultato positivo, però mi sembra strano, visto che ha dovuto lasciare 3.000 euro di riscatto e possono avergli applicato il 12,50 sulla differenza tra quanto incassato e quanto versato. Però. No, tra l'altro invece il secondo caso, dal secondo tipo di polizza di Maria, lei dice gli è già scaduta, ha preferito non riscattare completamente il capitale ma la tiene lì. Che cosa vuol dire, Federica? Ci sono delle polizze che prevedono la possibilità alla scadenza che si lasci sostanzialmente il montante maturato in compagnia, e questo verrà rivalutato di anno in anno finché non il risparmiatore non ha voglia di incassarsene, insomma si prosegue nel contratto. Allora, stavo intanto controllando alcune riflessioni dei nostri ascoltatori al 349 238 6666. Noi stamattina stiamo parlando esclusivamente di INA e ha una posizione e Poste Vita, altra questione. Ci sono altre compagnie che sono interessate, Federica, ma, torna a diciamo chiedertelo. Diciamo che queste compagnie sembrerebbero, per INA io non posso dirlo perché non ho visto i contratti, per Poste Vita sicuramente c'è stata una possibilità di incassare successivamente i due anni anche gli importi. Per le altre è chiaro che c'è comunque una finestra temporale, per cui chi avesse delle polizze a casa scadute, purtroppo chi ha avuto dei decessi in famiglia, chi ha avuto, si affretti magari a cercare tra le carte, perché spesso anche i consumatori lo fanno presente, le associazioni, spesso magari c'è il classico caso della vedova che trova la polizza vita del marito in ritardo, è chiaro che le carte, queste cose, queste spiacevoli cose che magari si rimandano perché uno non ha piacere. Non è che tante volte il marito lo fa così per nascondere magari, ma solo proprio magari per tutelare gli eredi, certo, magari sono cose non tutti hanno una perfetta visibilità di quanto poi ci sono purtroppo dei casi imprevedibili. Concludo quindi con l'avvocato Maurizio Nunziante. Dobbiamo dire ancora qualcosa agli ascoltatori che sono in ascolto? Qual è il prossimo step, avvocato, di questa vostra azione? Il prossimo step, da un lato c'è il piano politico in cui cerchiamo di intervenire e fare massima pressione perché al più presto, perché a marzo ci sarà un nuovo incameramento delle polizze scadute nel 2009, quindi cercheremo di agire per una nuova modifica che limiti la retroattività, ampli termini di prescrizione e preveda degli obblighi di informazione da parte delle compagnie. Da un punto di vista invece di tutela più legale proseguiremo in questa azione e cercheremo anche di trovare ulteriori spiragli, per esempio per quanto riguarda la prescrizione noi riteniamo che laddove ci sono degli eredi che solo successivamente hanno saputo dell'esistenza di questa polizza, allora il termine, e riescono a provarlo di averlo saputo successivamente, in questo caso c'è un articolo del 2935 del Codice Civile che prevede che la prescrizione maturi da quanto la persona che può materialmente è in grado di, il titolare del diritto è in grado di esercitarlo, quindi in questo caso da quanto l'ha scoperto. Benissimo, avvocato, e poi anche, sì, soprattutto in chiudo il discorso, voglio dire anche di sollevare l'incostituzionalità di questa norma, che sarebbe perché un altro crea passo. Un'evidente disparità anche rispetto alla situazione dei conti bancari dormienti. Benissimo, avvocato, grazie, buon lavoro, ci risentiremo senz'altro presto, grazie anche a Federica Pezzati per essere stata con noi, grazie a Gaia Romani ed Alessandro Longoni per la collaborazione in redazione, Pietro Lacorte in assistenza tecnica, ci sentiamo domani, buona giornata.